Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di economia sotto un profilo particolare, il profilo della psicologia, e lo facciamo con il professor Pierangelo Sardi. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Pierangelo Sardi, psicologo, è stato presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia, ha scritto l'anno scorso un libro, Crescita Economica Italiana, Questione Psicologica, e quest'anno ha riproposto gli stessi temi, approfondendoli ovviamente, in un libro che ha un titolo molto intrigante, Impotenza Lavorativa e Decrescita. Mi sembra già dal titolo che definisca un po' la prospettiva. Molto spesso si parla del lavoro, si parla della crisi, guardando allo scenario esterno, come se le persone fossero un po' vittime della crisi. Parlando di impotenza lavorativa, sembra mettere in primo piano appunto la persona, un po' come protagonista, essa stessa, come una sua incapacità, così come di amare. Si parla di impotenza in questa prospettiva molto spesso in psicologia, un'incapacità di lavorare vista dalla persona. È questa la prospettiva di questo libro, professor Sardi? Sì, è l'esatto opposto che 100 anni fa. Noi psicologi ci siamo formati su casi come quello del padre di Dora, un potente industriale che era impotente sessualmente. Perché? Perché era inibito, perché l'aria che tirava allora boicottava, puniva, reprimeva la capacità di amare. Io credo che il padre di Dora oggi non avrebbe problemi su quel versante, ma soprattutto in Italia probabilmente si sentirebbe impotente lui, l'imprenditore, forse anche i suoi dipendenti, forse anche gli autonomi. Questa è la sensazione che viene generata in Italia da forme di repressione che somigliano moltissimo a quelle di 100 anni fa, su cui si sono esercitati i nostri predecessori, però cambiando. Freud diceva salute mentale, capacità di amare e di lavorare, cambiando l'oggetto. Questa volta la repressione è sulla capacità di lavorare. Ma questo perché in fondo ci siamo fatti un po' male da soli, sono state le scelte che abbiamo fatto negli ultimi anni che hanno portato a una situazione del tipo che lei descrive. Sì, non è colpa di nessuno, è una cosa molto generale, come 100 anni fa è un'aria che investe gli educatori, i politici, i giudici, un po' tutti gli opinion leader, senza rendersene conto, perché 100 anni fa in realtà tutto si faceva in difesa della capacità di amare, credendo di migliorarla, di renderla più nobile, più perfetta, più duratura. In realtà si generava isteria, frigidità, vaginismo, impotenza. Ecco, però in questa lotta storica tra Eros e Thanatos che lei descrive nel libro, andando e stando sui temi dell'economia, lei parla molto esplicitamente di alcuni fattori esterni, alcune scelte, la scelta della rinuncia al nucleare, per esempio, la scelta della rinuncia agli organismi geneticamente modificati, la scelta di rinunciare ai termovalorizzatori nella gestione dei rifiuti, tutte scelte che portano poi in fondo a una crisi dell'economia. Tutte contro la tecnologia in Italia, sì, perché la tecnologia è prodromica alla capacità di lavorare, così come 100 anni fa la nudità, gli approcci erano prodromici alla capacità di amare, allora si reprimevano quelli, in Italia si reprime, ma con gli stessi strumenti, per esempio nessuno in Italia sa cosa c'era scritto nel referendum ritenuto adesso del 2011 antinucleare, che in realtà cancellava 2 commi facilitando, agevolando, accelerando il rilancio del nucleare, uno che aboliva l'anno di sospensione decretato dopo Fukushima e l'altro che aboliva la consultazione degli enti locali che dovevano ospitare le centrali. Nessuno lo sa, è una rimozione pazzesca, paragonabile solo alle grandi rimozioni sulla sessualità che c'erano 100 anni fa. In fondo le ideologie non sono cadute, perché le ideologie sono quelle che hanno il sopravvento nelle scelte come il nucleare o come gli OGM. Hanno cambiato direzione, invece che reprimere appunto la capacità di amare, reprimono la capacità di lavorare, rendono praticamente impossibile, perché se noi a sto punto paghiamo l'energia, secondo i dati del governo americano, 5 volte quello che lo pagano le industrie francesi, 3 volte è quello che lo pagano le industrie tedesche. Anche qui tra l'altro c'è una rimozione, noi diciamo che è il 30-40% in più, non è affatto vero, bisogna guardare dalla media europea, si dice, ma si mettono insieme l'energia pagata dalle famiglie, quella pagata dalle fabbriche, non si tiene conto delle esenzioni che hanno decretato i tedeschi, e i calcoli giusti li fanno gli americani e vedono che veramente rende impossibile in Italia lavorare, produrre. Ecco, ma in questa prospettiva, proprio da psicologo a questo punto, com'è possibile mutare atteggiamento verso la tecnologia, verso la modernità, verso questi fattori che possono, anzi, sono fondamentali per affrontare quella che è ormai una competizione globale? Ma io nel mio libro propongo esattamente di ripercorrere le orme dei nostri predecessori, le tecniche che loro hanno usato verso i più repressi e i più repressori, tra l'altro, allora della capacità di amare, e cioè bisogna parlare con i più accaniti, bisogna parlare con i grillini che sono stati determinanti nel referendum antinucleare, bisogna parlare con Rodotà, con le persone in buona fede che hanno causato il disastro italiano, ma non sono colpevoli, come metta a caso Manzoni, io adoro il Manzoni. Però è un romanzo che dice che fra un uomo e una donna non ci si dovrebbe nemmeno dare del tu, non si dovrebbe assolutamente approcciarsi, provare qualcosa, toccarsi, guai. E ottiene tutto questo con un capolavoro. Non era stupido, nel modo più assoluto, come non sono stupidi i grillini, Rodotà certamente, Di Pietro, tanti altri che hanno... la Bonino che ha causato il primo dei due referendum ritenuti antinucleari, non lo sono, nemmeno l'altro lo era, perché c'è il trattato Euratom che proibisce di uscire dal nucleare, per questo hanno questa formulazione esattamente opposta a quella che la gente crede. Queste persone sono in buona fede, bisogna parlare con loro, ma solo gli psicologi riescono a farlo, come 100 anni fa solo Freud riusciva a dire ad ora, guardi che lei alla tosse isterica continua perché lei incestuosamente ama suo padre, immagina di il suo sperma in gola. Chi riusciva? Nemmeno un attore, il più sboccato degli attori di avant spettacolo, sarebbe riuscito a dire una cosa del genere a una giovane verginella ottocentesca. Gli psicologi ci sono riusciti perché dietro c'è una tecnica scientifica, c'è una... Lo stesso tipo di tecnica io propongo oggi di usare con le persone più violentemente repressive. Io sono in varie mailing list, la gente si insulta fra filo e antinucleari o filo e antinceneritori, OGM, cioè tutte le tecnologie che sono indispensabili per lavorare. Ci si insulta come 100 anni fa, veniva ritenuta osceno. Chi tentava di dire ma ragioniamo, guardate che qui è un'epidemia, si sta tutti male, si è tutti infelici. Ecco, ma in questa prospettiva allora lasciamo il potere agli psicologi? Ma no, che potere hanno preso 100 anni fa gli psicologi? Assolutamente, no, scherziamo, anzi lo psicologo da questi rapporti esce fuori piuttosto male, piuttosto il paziente è molto asciutto. Non è molto riconoscente verso, perché sono cose sgradevoli. Andare a dire, io lo vedo tanti amici che provo a farli ragionare su questi temi, mi proprio grazie al fatto che viene instaurato tutto un setting, diciamo, una serie di precauzioni, no? Bisogna prendere, perché altrimenti proprio ti cacciano via in malo modo. E anche dopo, alla fine, quando si convertono, diversi io l'ho visti convertirsi, rimane stata una cosa troppo faticosa, perché l'aria è questa. L'aria oggi in Italia è contro ogni cosa che favorisca la capacità di lavorare. Ma io conto molto su strumenti come il vostro, voi siete giustamente, credo, collegati a Confindustria, insomma, voi avete sicuramente interesse a venderne a capo, almeno a discutere di questi problemi. Ecco, nel libro certo. Lei diciamo promette anche iniziative nell'ambito dell'Expo 2015. Sì. Sì, io ho ottenuto dai colleghi europei, come rappresentante, ho rappresentato per una ventina d'anni gli psicologi italiani, come presidente non dell'associazione, dell'ordine degli psicologi anche delle altre professioni, di fare a Milano nel contesto Expo 2015 il prossimo congresso europeo, in realtà mondiale, internazionale di psicologia, e io conterei molto, ecco, che venga in qualche modo a rovesciare, perché noi abbiamo un vantaggio rispetto a 100 anni fa, un enorme vantaggio, che questa atmosfera è limitata ai PIGS, Italia, Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda, quelli che vanno più male. Qui c'è quest'aria qua, però basta passare le Alpi e vede il nucleare in Francia, in Svizzera, in Slovenia, insomma dappertutto, in Inghilterra, in Germania, e basta portare i colleghi di questi paesi e loro facilmente ci aiuteranno a superare questi pregiudizi. Basta abbonarsi alle riviste, io sono abbonato all'Economist, sugli OGM, sui pregiudizi tipicamente italiani, assolutamente li considerano delle sciocchezze, insomma, questo è più facile. L'importante è ragionare su questi temi, affrontarsi con molta apertura, con molta capacità di appunto di aprire il giudizio di fronte alle nuove possibilità, e quello che si può fare anche leggendo questo libro, sicuramente un po' provocatorio, di Pierangelo Sardi, Impotenza lavorativa e decrescita, come uscirne, edito da Armando Editore, sono 112 pagine per 12 euro. Grazie al professor Sardi, grazie anche a Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.